Ah, iniziamo adesso qui la presentazione del libro Puntuali. Di Federico Raponi, E quando il fumo si dirada. Molti di voi l'avranno letto, molti di voi lo leggeranno perché l'hanno comprato qua stasera. C'è qua con noi Elio Germano, c'è chiaramente l'autore Federico Raponi, c'è Vincenzo Migliucci, che tutti conoscono, che è il nostro padre putativo, grande agitprop del movimento degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000. Basta. Uno dei papà di Radio Onda Rossa. Uno dei grandi padri di Radio Onda Rossa. Basta, e quindi basta la presentazione. Bruno, visto che hai introdotto, mi farebbe piacere pure sapere alcune considerazioni tue sul libro. Quando vado nei posti a presentarlo mi piace proprio lo scambio, quindi con te poi abbiamo anche avuto modo di parlarne, però insomma un ragionamento più collettivo mi sembra buono. Sì, diciamo che con Federico ci ho avuto diverse occasioni di parlare, sia quando lo stava scrivendo, sia dopo che l'ho letto. E la prima cosa che mi ha colpito, gliel'ho detto subito, è l'uso della terza persona. Cioè lui parla di sé come di un personaggio, no? E quindi questa cosa un po' all'inizio mi ha messo in difficoltà nel leggere il libro, perché conosco Federico. Poi ho immaginato di non conoscerlo e mi sono trovato più a mio agio con il libro. E l'ho letto con piacere, sono tante cose che mi hanno fatto molto ridere e anche piangere altre a ricordarle, no? Ho diverse domande da farti su alcuni episodi che racconti all'interno del libro. E poi vabbè, così l'ultima battuta. Nel libro ricordi anche il rapporto che c'era stato tra Ascatasuna e quello che era il faro in quel momento, e con i compagni della zona nell'occupazione di Ascatasuna e tutte le varie vicissitudini che c'erano state in quel posto. Sicuramente a me mi ha fatto piacere leggere questa cosa e mi ha ricordato un percorso che si era fatto qua in questa zona, dove comunque in quel periodo i compagni erano molto forti. E quindi ho ricordato con piacere quel momento. Vabbè, visto che l'hai tirata fuori questa storia della terza persona, mi fa piacere pure il fatto che vedendola da fuori è stato meglio, sei andato oltre il fatto che ci conosciamo. Ed era proprio quello l'intento. L'idea mi è venuta in automatico, appena ho avuto l'idea di scrivere questo libro è venuta automatica la terza persona. Questo perché? Perché la storia che ho attraversato e che ho vissuto insieme a migliaia e migliaia di persone è una storia collettiva, e quindi era anche rendere omaggio a tutte le persone che l'hanno attraversata, essere parte, essere un piccolo tassello di un mosaico che è stato poi la Roma antagonista alternativa a partire dalla metà degli anni Ottanta, perché quello è il periodo in cui ho cominciato la mia esperienza al liceo e il mio avvicinamento alla politica fino ad oggi. Ed è anche un modo per vedersi dal di fuori, perché questo è un diario a posteriori, scritto a 20-30 anni di distanza dai fatti. E quindi, secondo me, fare lo sforzo di vedersi dal di fuori oggettivizza un po' le cose, quindi riesci a essere un po' più obiettivo rispetto alle scelte che hai fatto. Io poi non do giudizi, non esprimo troppo concetti e miei pensieri. È un po' anche un mettere insieme tanti fatti, tanti episodi, tante cose che ho fatto. E proprio mettendo insieme tutto quello che è successo e che ho fatto, viene fuori un percorso, e quindi hai anche un po' più idee chiare, oltre al panorama di quella che è stata la Roma antagonista di vari decenni, anche il proprio percorso personale. Poi ho avuto anche l'idea di coinvolgere Elio, perché è un'amicizia di quartiere, ci siamo conosciuti in libreria e nel corso dei decenni ci siamo incontrati in varie occasioni, dalla sua band Le Bestie Rare, che tra l'altro hanno suonato anche per Radio Onda Rossa in più occasioni, alle occupazioni, e le occupazioni del nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo, dove la radio ha fatto varie iniziative e dove Elio ha fatto il suo spettacolo Viaggio al termine della notte con Teo Teardo e delle amiche musiciste, all'occupazione del Teatro Valle, sempre qui a Roma. Doveva essere inizialmente un'occupazione di 3 giorni, e nella seconda di queste giornate io ho insistito perché la radio facesse una diretta di quanto stava succedendo, e in questa serata Elio era sul palco a dialogare con Andrea Camilleri prima di fare poi anche lo spettacolo Viaggio al termine della notte. Questo dà anche un po' il livello di quella che fu quell'occupazione e quanti artisti a livello anche internazionale ha coinvolto per 3 anni poi alla fine. Doveva essere un'occupazione lampo, si è protratta nel tempo e anche lì poi c'è un capitolo da approfondire rispetto alla trattativa messa in piedi con le istituzioni dell'amministrazione ma anche della cultura in città. E poi c'è Vincenzo che è presente già da qualche presentazione, abbiamo fatta insieme già quando si poteva, prima del secondo lockdown. Vincenzo, come dicevo prima, è uno dei papà di Radio Onda Rossa. Grossa parte del mio percorso si è svolto dentro Radio Onda Rossa. La prima volta che ci misi piede fu per denunciare un'aggressione fascista al mio liceo, al liceo Manara a Monteverde, ed era il 1985. Andammo in radio con una mia compagna di classe in Vespa e fu la prima volta che ci misi piede. E poi 10 anni dopo cominciai con una trasmissione sulla memoria storica, poi una trasmissione musicale, poi la trasmissione di teatro che tuttora va avanti, la trasmissione di cinema che tuttora va avanti. Vincenzo, di generazioni che si confrontano tra l'altro. No, ma tu hai citato Radio Onda Rossa, questa radio libera da ogni condizionamenti, volontaria, che non riceve soldi né dalle istituzioni né dai padroni, ma tutto avviene tramite sottoscrizioni. Avviene tramite una tessera annuale di 30 euro, con una spesa modestissima per una radio che si sente un po' in tutta Roma da 30.000 euro, quindi capite bene che ci vogliono circa 1.000 sostenitori per poter mandare avanti questa radio, ma poi ci sono nella città tantissime fonti che danno un contributo ospitando concerti, ospitando filmati, ospitando registi, attori, ovviamente che a loro volta sostengono questa esperienza che dura da 44 anni, pensate, no? Era il 24 maggio del 1977, era una radio pienissima con tutto quel movimento che c'era, sapevamo a chi dai resti. I turni non c'era problema, era un turno continuo, 24 ore di turno, perché era un piacere, era la scoperta di avere uno strumento del genere. E poi successivamente la nascita delle posse, no? Della musica, che ne ha viste tante, dai cantanti che sono diventati famosissimi come De Gregori, alla 99 Posse, agli Assalti Frontali, insomma ce ne sono di generazioni che hanno vissuto quell'esperienza e tuttora la vivono. Pensate che domani andrà in diretta Una Bella Storia, non so se qualcuno di voi ha sentito parlare di Sant'Enotar Nicola. Sant'Enotar Nicola ha scritto L'Evasione Impossibile quando era in carcere condannato per un po' di rapine proletarie, si diceva all'epoca, arrestato con la banda Cavallero, erano tutti operai, gente di sinistra, c'è stato un bellissimo film di Lizzani che ricorda questa esperienza. Beh, tra l'altro Sante si politicizzò in carcere. Si politicizzò in carcere, ha fatto tantissime esperienze, ha girato tutte le carceri d'Italia, ovviamente ha subito l'onta di circa 28 anni di carcere, quindi che non sono pochi da questo punto di vista. È morto di recente, purtroppo, di Covid, come sono andati via tanti altri nostri fratelli e sorelle che abbiamo voluto bene. Domani c'è la dispersione delle ceneri, con un bellissimo percorso che avviene sulle montagne di Marzabotto. E voi sapete che Marzabotto è medaglia d'oro della Resistenza per aver subito quell'infamia da parte della ritirata nazista lungo la linea gotica, e che uccisero lì veramente migliaia di persone. A Marzabotto c'è quel sacrario per chi c'è andato e sa che cosa significa. Sulle montagne di Marzabotto, sulle colline di Marzabotto, in località Montesole, c'è un cammino partigiano. Ecco, domani si percorrerà questo cammino partigiano con compagni e compagne venute da tutta Italia. Però alla fine di questa tappa ci sarà la dispersione delle cenere di Sante e ci sarà la diretta in radio dalle 11 a mezzogiorno. Ecco, giusto per dire che Radio Onda Rossa dopo 44 anni ancora fa di queste cose, oltre a presentare il libro di Federico, oltre a parlare d'Elio per quanto si comporta bene con i personaggi al cinema, ma fa la cronaca quotidiana della mattina che comincia con la rassegna stampa a partire dalle 8.40 per finire intorno alle 10 e poi dà voce a tutti con un vecchio numero a 6 cifre, 49 17 50, giusto per dirvi che pure quello è un percorso storico. Beh, su questo Federico si è incistato con Radio Onda Rossa perché negli ultimi vent'anni in maniera assoluta, ha dato spazio, voce a tutto quello che è la controinformazione culturale dal punto di vista teatrale e dal punto di vista cinematografico, che ha messo quindi in relazione queste che sono le arti importanti, voglio dire, e la cinematografia italiana ha avuto tanti autori, attori, personaggi di un certo spessore, che quindi non si è accontentata solo di fare filmetti da quattro soldi oppure di rimpinguare le proprie sostanze, ma ha dato dei contributi di natura sostanziale. Beh, le trasmissioni che ha messo in onda Federico e che oggi le mette in onda in diretta sono sicuramente ascoltate da migliaia e migliaia di ascoltatori, e ha trovato strada facendo questa enorme simpatia, il nostro riferimento più simpatico, anche perché non c'è sta più, ma gli abbiamo voluto un sacco bene, Monicelli, che diceva: io non posso morire se voi non ascoltate Onda Rossa, voglio dire, da questo punto di vista, perché quantomeno dal punto di vista mio è una radio che va contro, va oltre, voglio dire, queste cose. E la figlia, tramite Federico, ci ha dato e ha dato ai giovanissimi le favole in diretta. Io ne ho ascoltata qualcuna, questo solo su Radio Onda Rossa e sul percorso che Federico l'ha trasportato poi in questo suo memoriale, che ovviamente è un enorme contributo che al limite sia nella vita attuale sia nella vita futura può essere pure un lavoro, perché ovviamente uno che ha fatto tutte queste esperienze, ha accumulato tutte queste relazioni, ovviamente perché non utilizzarle, punto interrogativo, fanno comodo a tutti quanti noi, per cui è giusto che questo avvenga. Ecco, questo solo in riferimento a Radio Onda Rossa, ma poi a parola a tutti quanti noi, che se può parlare di tanto. Dico due cose io, sì. Perché allora Federico, ecco, giusto sulla radio, ci conosciamo da tanto, perché la sua libreria a Monteverde, un quartiere come Monteverde dove io passavo perché andavo a scuola, era una libreria dove si trovavano tante cose, dove sì, c'era un rapporto, comunque anche per me da 14enne trovavo insomma un'umanità, un dialogo e dei consigli. Grazie. Soprattutto. E poi ci siamo, ovviamente per quanto mi riguarda, sono anch'io cresciuto nella ricerca di spazi alternativi che mi somigliassero, no? Sono di una generazione un po' successiva a quella di Federico. Io a metà degli anni 90 cominciavo a cercare ambienti dove banalmente non si dovesse per forza comprare o vendere qualcosa, e dove ci fosse una musica che non si trovava nelle radio principali o degli ambienti. E quindi, attratto da queste cose, ho cominciato a frequentare il Faro qua, che era sicuramente uno dei posti più vicini, e era l'epoca, per farvi capire, del Rialto, l'ex cinema, lo spazio bellissimo, queste terrazze dove si vedevano mostre fotografiche, cose, facevano i falafel, il Villaggio Globale. E poi, ecco, unito a un tipo di musica che poi da quella sono stato anche io poi preso, e ancora oggi appunto questo gruppo che si chiama Le Bestie Rare, che si è formato nel 98 proprio sulla scia del movimento delle posse eccetera, quindi è una modalità che ancora andava avanti. Imparavamo che cosa? Una modalità del in qualche modo risolvere le cose in autonomia, anche quello delle posse, del rap, è una modalità come era del reggae, anche del punk un po' prima, per esempio, di fare musica senza dover dipendere da nessuno, no? Di fare le cose da soli, e quindi di potersi gestire la propria vita in termini autonomi invece che cercando di assomigliare a qualcun altro. Negli anni 90, forse dalla fine degli anni 80, cominciava questa modalità di allevamento delle persone secondo delle mode o degli schemi, cosa che probabilmente oggi insomma scontiamo in maniera esacerbata, dove appunto si era sottomessi a dei modi di vestirti, no? Cose, come dire, esemplificate in un film che io all'epoca non sopportai molto, che era quello di Muccino, che diceva: se sei vestito così sei un pariolino, se sei vestito così sei un compagno. Ecco, io che non mi sentivo in nessuna cosa, che sono, no? Perché non mi riguarda nessuna di queste cose? Siccome come me tanti altri coetanei non si sentivano rappresentati da niente e da nessuno, nascevano questi spazi di autonomia, di vita, no? Ecco, una radio, la Radio Onda Rossa, è una radio che innanzitutto a un quindicenne, a un sedicenne, per cosa la colpiva? Perché faceva una musica che non si ascoltava da nessun'altra parte, e tra l'altro di qualità, perché poi c'era una musica appiattita su delle logiche di vendita, come ancora oggi esiste, e ancora oggi attraverso la radio c'è la possibilità di ascoltare musica che sicuramente non si ascolta da nessun'altra parte, proprio perché non è gestita da quelle logiche lì. E soprattutto c'era una cosa meravigliosa, che all'epoca dove con le cassette si facevano le compilation, no? Tu sentivi le cose in radio e andavi là a spingere il rec, Radio Onda Rossa faceva un servizio meraviglioso che se facevi lo squillo al numero suscitato ti rimetteva la canzone da capo. Quindi, il come again, il come again proprio del reggae, ma con certo fastidio, perché certo si arriva pure la terza, quarta volta, allora dice agli altri ragazzi, compagni, sintonizzatevi, c'era chi lo faceva apposta. Però questo servizio, no, per potersi fare le compilation, cioè per dire adesso una stupidaggine che però comprende la cosa, invece poi che crescendo ho trovato come uno dei più grandi servizi che poi ancora oggi viene fatto in tante altre occasioni, quello che è successo durante il G8 di cui ricorre il ventennale, cioè Radio Gap, questa connessione tra varie realtà di radio a cui Radio Onda Rossa ha dato spazio, voce eppure forse idea, e dava la possibilità, nell'epoca dove non c'era internet, non c'erano telefonini o sicuramente non per tutti, di sapere cosa stava accadendo. Io non sono stato a Genova quei giorni perché avevo un concerto delle Bestie Rare, tra l'altro importante, al Foro Italico, apriamo una situazione grossa, e mi trovai, perché ascoltando Radio Gap la notizia era morto un ventenne, io che avevo tutti i miei amici di 20 anni dell'età mia sopra, non sapevo se era un amico mio, non si sapeva niente, e mi sono trovato io a dare la notizia al Foro Italico perché l'avevo sentita su Radio Onda Rossa, perché ovviamente le agenzie ancora non avevano battuto la notizia. Questo per parlare di un'esperienza ovviamente personale, ma per dire come poi con Federico in varie situazioni, questo tramite la radio, tramite gli spazi, ecco, tutti gli spazi che ho citato prima, il spazio di studenti, ci siamo incontrati, vari spazi di realtà romane, dal Forte Prenestino, Agrobax, a poi spazi in cui poi ho contribuito a occuparli personalmente. Ma sicuramente sul fattore appunto del cinema e del teatro, vi dico da persona che fa da 25 anni questo lavoro, che il lavoro che fa Federico e che ha fatto anche fino adesso è un lavoro che non ha uguali in tutto quello che viene fatto, mosso da altre esigenze, cioè di fare business nello stesso settore, cioè la raccolta di stampa, di critica sul cinema e sulla raccolta della registrazione degli spettacoli teatrali. Quasi 800. Quasi 800 spettacoli teatrali, il teatro, soprattutto nella nostra condizione dove non c'è più un ente teatro italiano, dove non c'è più niente, si perdono nel nulla. Il lavoro che fa Federico di registrazione degli spettacoli è un lavoro enorme che gliene renderanno merito, penso, non so per quanto tempo a venire, insomma, è che veramente dà la possibilità di accedere a delle cose che uno non sa manco che sono esistite. Beh. Per quello che riguarda il cinema, è riuscito alla trasmissione di cinema di Federico da sempre. Le persone che chiamano sono tra i più grandi critici cinematografici, i più famosi, che scrivono ciascuno sui loro giornali, ma sui loro giornali sono mosse da dinamiche che noi possiamo incontrare nei nostri posti di lavoro, chi più e chi meno, di paura di dire la propria, di ingraziarsi il datore di lavoro. La modalità che c'è nella radio permette alle persone di essere libere, per quello che questa parola vuol dire in una delle declinazioni più invece concrete, di non sentire queste pressioni e di dare un servizio veramente indipendente, dire la propria. Si sentono le critiche dei film come non potete sentirle e leggere da nessun'altra parte, quindi per il teatro, per il cinema, e in questo rispecchia la modalità della radio, se posso unirmi, che soprattutto poi durante questo periodo di Covid a mio avviso ha fatto un ulteriore balzo di qualità proprio in avanti rispetto alle assemblee che si facevano in tutta Italia, assemblee radiofoniche come sono state chiamate, o all'intervento dei grandi, di persone competenti che finalmente ci hanno fatto capire le cose. Ecco, se chi ha sentito la radio durante il Covid sicuramente avrà capito quello che stava succedendo, come non si riusciva a fare con i mezzi di informazione tradizionale. Ecco, questa testimonianza di rincontrarci insieme proprio per inseguire una qualità, no? Ci si trova a fare le cose in autonomia, perché probabilmente quello che abbiamo imparato nelle assemblee che abbiamo attraversato probabilmente insieme, che la forma appunto innanzitutto di scardinarsi da un'esigenza di profitto, no? È evidente, permette di concentrarsi sulla qualità in maniera maggiore perché ci si riempie di quello. Questa cosa è contagiosa, evidentemente, riesce a coinvolgere altre persone che provano un piacere diverso nel fare una cosa, non mossi da profitto, ma dal piacere di quello che fanno, e questo porta a una qualità molto più alta anche come servizio, no? Quindi ecco, in qualsiasi sia la vertenza, in questo caso è un discorso anche lavorativo, perché fa parte di quello che io faccio per lavoro, invece mosso da dinamiche che sono invece quelle del profitto. Quindi io lo ringrazio da utente, da amico, e insomma ecco, ho l'occasione di farlo pubblicamente. È lì che ci siamo incontrati, è lì che ci rincontreremo, perché ormai che abbiamo conosciuto questa modalità è difficile che poi ci piegheremo a fare altro o solo altro. Anni fa facevamo anche qualche giornale radio insieme. Come no? Lui ebbe la responsabilità di io, conoscendo la radio, soprattutto la radio, capite che funziona per volontariato, anche se è una parola brutta che si dice, per passione e militanza. Per passione e militanza, ma soprattutto perché qualcuno ce va, no? Farlo, no? E quindi io adesso, quando mi sento la mattina la lettura dei giornali, sempre una cosa altissima di qualità, so che vuol dire, perché l'ho fatta, andavo a leggere non i giornali, ma le notizie, il primo notiziario. Ma poi dico, che posso fare, Federico, per la radio? Dice, no, vieni con me a fare notiziario, scoprì questa cosa meravigliosa, interrotta da un fatto drammatico. Un giorno un che, sinistro. Un giorno che avevo un notiziario la mattina alle 9 e di qua a moto, io c'ho sempre, poi sono cresciuto fortunatamente, delle suore proprio, vedi, forse lo sapevano che facevano, hanno attraversato a Villasciara, io sono caduto con la moto e non si fermarono neanche a soccorrermi, ma io persi il notiziario. E da allora, con un'onta, perché poi non c'erano i telefonini, non potevo avvisare. Si interruppe questa, potevo vedere, magari fare radio, quelle, tutto quelle suore. Il Vaticano c'entra sempre. Per anni ha oscurato le frequenze di Radio Onda Rossa. Ancora oggi, se va intorno ai mura Vaticane, non pia. A causa contro il Vaticano. Sì, sì. Abbiamo dovuto cambiare le frequenze. Sì, certo. Per 2 anni e mezzo, chi si sintonizzava? Un pezzetto di Roma sentiva... Ave Maria, il Padre Nostro, c'è l'altra parte, bandiera rossa, l'internazionale, dice, ma dove sto a sti livelli? Ma sai, siamo arrivati a fare una scritta sul portone di San Pietro, capito? Sui portoni delle altre chiese, dice, ma è possibile il Vaticano con tutti questi soldi che c'ha, con quel popò d'apparato lì a Cesano, ci sono morti pure persone, lì purtroppo con le onde elettromagnetiche hanno fulminato pure un sacco di gente. Dico, possibile se devi mettere sopra Onda Rossa? E quello gli ha detto, io sono più forte, mi metto lì. Vabbè, se questa è la politica, per fortuna c'era un'altra frequenza libera, se no a stura. 87,9. Da diverso tempo. L'ha data un ministro di destra. L'ha data, ha dovuto da. Ha dovuto da perché Onda Rossa... Una presa d'atto. I concerti sotto il Ministero delle Poste all'Eur. Il ministro era Gasparri, ministro delle poste e telecomunicazioni, molto timido, che arrivano autonomi, sì, sì, arrivano autonomi. Mi ero segnato diverse cose divertenti, chiaramente perché ho letto il libro, una cosa che mi ha colpito tanto, e ne voglio parlare subito, è il famoso concerto dei Rage al Villaggio Globale. Allora, molti di noi, compreso me, compreso Elio, stavamo lì, aspettare Tom Morello che saliva sul palco, io suonavo la chitarra all'epoca, quindi ti mi ricordo pure sta cosa, che Alfaro mi dice, ma dove vai, ma tanto non vengono, ma come non vengono? Buono, perché mi dà un gancio per raccontare questa cosa, c'erano i manifesti per Roma, Rage Against the Machine al Villaggio Globale, quindi c'era un motivo perché io stavo là insieme a altre 10.000 persone, da tutta Italia, sono venuti, da tutta Italia, c'erano i pullman, e quindi pioveva, ecco perché è saltato. No, pioveva, questa è la scusa ufficiale, dai, non può essere la scusa che pioveva, perché uno porta i Rage a Roma... Così tu racconti nel libro che i Rage stavano a Roma. Io a sta cosa, a sto punto, non ci credo. C'erano. Ma tu li hai visti fisicamente? Chiaro che ti fidi, ti dicono allora... che sono venuti a Roma, hanno fatto il sopralluogo, il palco era metallico, okay. Aveva piovuto, non c'era la copertura, stava però ancora piovendo. Però uno porta i Rage e fa un palco senza la copertura. È successo, è successo. Capire invece devi aspettare questo e quest'altro, però. È successo. Invece noi a Faro sempre regole abbiamo fatto. No, però con tutto il rispetto che chiamiamo i Reggia che se ne noi al concerto delle bestie rare a Bari, che un po', non dico pioveva, era brutto tempo, ogni volta toccava la ringhiera abbiamo la scossa. Capisci? Per dire l'altro ieri, cioè, nel senso, ora i Reggi sì. Forse hanno più reputazione, quindi... No, nel senso, ecco, se ti andate a raccontare questi frangenti, nel libro è molto divertente, però in realtà per chi stava là non è stato molto divertente. No, perché, per niente. Cioè, nel senso, chi stava là ci è rimasto molto male, insomma, di questa situazione. E a me, sinceramente, mo così... Mi è venuto il dubbio. Mi è venuto il dubbio che c'erano, e soprattutto ho visto una certa produzione culturale dopo al Villaggio Globale. E quindi questa cosa ha alimentato un po' il mio dubbio, però questo niente di che... Cioè, nel senso... Non voglio fare dietrologia su questo, ma Comunque l'ho pensato. Vabbè, Manu Chao ci ha suonato. Manu Chao c'era, no, ma io ci ho visto i CSI là, ci ho visto i Beastie Boys, vedi. L'episodio del mancato concerto io l'ho messo perché per come l'ho vissuto io è stato un po' uno spartiacque. Nel senso, era un'iniziativa per sostenere il movimento zapatista e coinvolgeva diverse strutture. Tra l'altro era in pieno periodo coordinamento centri sociali. A Roma in quel periodo, stiamo parlando della seconda metà degli anni 90, c'erano qualcosa come 40 occupazioni sparse in tutti i quartieri di Roma. Era un movimento forte e aveva imposto alla controparte, all'amministrazione, una trattativa per l'assegnazione. Dopo un periodo continuo di sgomberi e rioccupazioni, si voleva valorizzare quel patrimonio di autogestione che tanta cultura, tanta socialità, tanta politica dal basso aveva prodotto. Quell'episodio, quel mancato concerto, secondo me è stato il salto che è mancato, perché a quel punto tu avevi fatto un concerto per il movimento zapatista con i Rage Against the Machine che venivano dall'altra parte del mondo. Come strutture occupate e autogestite di Roma, secondo me ti imponevi proprio sulla scena non solo nazionale. E secondo me da lì in poi c'è stato un lento declino, anche per come è andata poi la trattativa con il comune per le assegnazioni, con i tanti impedimenti che hanno messo in mezzo, dalla patente di democraticità che ha creato la solita divisione buoni cattivi, dal canone d'affitto al 20% del valore commerciale che avrebbe stroncato le gambe a qualunque nuova occupazione, al fatto che si trattava di una sanatoria per cui non ci sarebbero state ammesse altre occupazioni da quel momento in poi. La delibera era del 95. Per cui, secondo me, quell'episodio è stato molto significativo. Poi, chiaramente, le occupazioni sono continuate. In questo senso, citavo prima l'occupazione del Nuovo Cinema Palazzo e del Valle, perché questo connubio tra arte e politica, secondo me, ha dato nuova linfa alle occupazioni. Ha creato un movimento molto e molto interessante. Come scrivo anche nel libro, l'occupazione del Teatro Valle è stata l'ultima grande esperienza collettiva a entusiasmarmi, perché sentivo parlare attori, attrici, tecnici. Io andavo o a vedere i film o a teatro e vedevo sempre il prodotto finale, non vedevo mai il lavoro che c'era a monte. E quindi sentire la loro voce, le loro rivendicazioni, con un linguaggio anche diverso da quello al quale ero abituato, chiamiamolo tra virgolette politichese, tra l'altro con supporti nobili, perché insieme agli occupanti c'erano anche Ugo Mattei, docente universitario, uno degli estensori dei quesiti referendari sull'acqua pubblica e sul nucleare. C'era Stefano Rodotà, che è stato tra i candidati anche alla presidenza della Repubblica. C'erano artisti che venivano da tutto il mondo e c'erano iniziative la sera. C'era la fila all'ingresso che faceva tutto il giro dell'isolato. Il Teatro Valle per quei 3 anni è diventato il fulcro della cultura a Roma, non solo antagonista autogestita, ma era riconosciuto ufficialmente. L'altra è legata al libro perché lo racconti, però anche all'esperienza personale, perché da ascoltatore dei visionari, no? Che è la trasmissione che è stata importantissima per la radio, per cinema, ne parlava prima Elio, no? La cosa bellissima dei visionari è che ho parlato anche io del mio documentario. Delle rassegne che facevi. Delle rassegne che si facevano al Faro, ma magari allo stesso tempo c'era, che ne so, Bertolucci la volta dopo, la volta prima. Quindi questa esperienza bellissima che hai costruito tu alla radio, che tra l'altro da portata al microfono d'oro, che è un premio, cioè, cittadino. Che è un premio cittadino che... No, che... Grande. Non lo sapevi. Lui ha vinto il microfono d'oro nella categoria cultura, comunque una volta l'ha vinto pure Federico Raboni, con una trasmissione che sta su Radio Onda Rossa, no su RTL, sulla Rai, su Radio Onda Rossa, che parla di cinema e con la quale tutti ci hanno dovuto fare i conti, con visionari, eh. Tutte le varie trasmissioni, io so anche l'ascoltatore di Hollywood Park che mi piace. Sono amici. Sono amici e spesso trovo delle similitudini, cioè, capito? Quindi questa cosa è molto, molto bella, molto qualificante, no? Per la radio, ma anche per noi come compagni, cioè, nel senso, il primato della cultura, mo c'è rimasto solo questo, no? Perché c'è rimasto solo questo. Facciamo in modo che ci rimane ancora, continuiamo a difendere la cultura, continuiamo a difendere la Covisionari, con i film di Elio, perché Vabbè, sì, perché le scelte che fai te, ne scegli i personaggi che fai, sono importanti. Non fai i film di Natale, questo certo. Per noi è importante. Certo. Poi uno si può vedere pure a Natale. Uno si può vedere. Non è mai troppo tardi, Elio. Sì, però, sì, sai... Per carità, sono anche quegli ambienti di lavoro con tutte le loro contraddizioni. Però, insomma, no, mi viene da pensare appunto al tipo invece di spazzatura sulla Rai, a parte Radio 3, che la radio comunque è sempre porta una qualità, perché anche sì, lì, è meglio. No? Ma perché? Cioè, perché ti puoi slegare? Perché Radio 3 non era Radio 1 e Radio 2, che invece conosco gente che ci lavora e devono mettere quella canzone ogni tot, hanno un piano comunque legato al business, non se ne scappa. Radio 3 è molto più libera, di conseguenza la qualità è maggiore. Ma se pensate i soldi che spende lo Stato per parlare di cinema, vanno tutti a confluire in una trasmissione che si chiama Il Cinematografo, che è l'unico momento in cui lo Stato si occupa di cinema e che è il cinematografo di Gigi Marzullo con quegli altri personaggi problematici, cioè, problematiche. Ma appunto è questo, cioè come lo Stato si occupa di parlare di cinema è questo, il cinematografo. E poi c'è Visionari e De Federico, cioè nel senso, come dire, no, penso più o meno con lo stesso budget. Cioè veramente appunto è imbarazzante, penso, per loro. Se là ci fosse qualcuno veramente, no, che si fa due domande, si dovrebbe vergognarsi moltissimo. Beh, sicuramente Marzullo ascolta Federico, perché a volte non penso, sì, ma penso proprio di sì, perché a volte ha detto delle cose che ha detto lui in radio, quindi pensa come stiamo. E quindi vabbè, mi aggancio a questa cosa dei Visionari, perché prima aveva fatto una battuta Vincenzo, no, adesso non va più in diretta, no, va registrato, no? Da remoto. A un certo punto mi ricordo che io e Federico siamo amici, ci capiva frequentarci anche per altre cose, e un giorno ci eravamo incontrati, credo in piscina, no, in piscina, e mi hai detto, vabbè, non faccio più Visionari. Come faccio più Visionari? Non faccio più Visionari. E lì sono rimasto un po', come non fai più Visionari? E no, beh, sai, il tempo, no, mi ricordo che mi hai detto non c'avevi il tempo, non riuscivi più a conciliare il tuo lavoro con la radio, non sapevi come fare. Io le dissi, beh, Federico, peccato enorme, come non lo fai più, cioè, trova il modo per farlo. E magari, ecco, se ci racconti questo modo che hai trovato di fare la nuova trasmissione, che c'ha un altro nome. Come dicevo prima, era cominciato tutto il mio viaggio in radio dal 95, e quindi stiamo parlando di oltre 20 anni. E a fine 2017, una mattina di dicembre, ho detto basta, non ce la faccio più. Nel senso, la radio comunque mi portava via, adesso meno, però mi portava via un sacco di tempo. Io avevo in media due trasmissioni settimanali, che poi sono di due ore e di due ore adesso. A questo va sommato anche tutto lo spostamento Monteverde, San Lorenzo, andata e ritorno, gli appuntamenti telefonici con gli ospiti, perché vai prima, perché ti devi mettere d'accordo su quando li chiamerai, resti dopo, alla fine della trasmissione, e a un certo punto non ce la facevo più. E quindi ho detto basta. C'era in ballo un'ultima iniziativa, che era Una mano sul cuore, un format che mi ero inventato io. Adesso ci sono dei modelli simili che funzionano altrove, tra cui Gli Amici di Sgombro o Le Donne per Ugo. Praticamente coinvolgevo una serie di attori, attrici, musicisti che avevano uno spazio di 5-10 minuti a testa, intervallati magari da canzoni, ed erano delle serate fiume. Ognuno portava un testo, io non davo neanche dei riferimenti, ognuno portava quello che voleva, magari incentrato sul tema della comunicazione e della radio. E quindi ho portato avanti questa iniziativa sapendo che per me sarebbe stata l'ultima. E infatti il giorno dopo ho comunicato alla redazione questa decisione, sarei andato il lunedì all'assemblea di gestione a salutare, e però poi lì mi hanno detto, ma perché non provi ad andare in onda registrato? Poi anche chi ascoltava la trasmissione diceva, no dai continua. A quel punto ho detto, vabbè, proviamo a vedere. E in effetti adesso che faccio le trasmissioni registrate, non più in diretta, c'ho un sacco di tempo in più a disposizione per me. Ne va un po' della qualità e anche la bellezza della diretta, per carità, perché ad esempio nella trasmissione di teatro facciamo gli spettacoli dal vivo in studio anche con più di 10 attori, con 3 microfoni, in una stanzetta piccola. Erano esperienze molto belle, quello mi manca, però gli spettacoli magari li mando in onda registrati. E quindi ho trovato il modo per continuare, perché comunque è una cosa che mi fa bene, credo anche di fare un lavoro che merita attenzione e che fa bene anche alle arti come il cinema e il teatro, perché il teatro underground gli ho dato tutto il risalto che potevo. Hanno cambiato nome, hanno cambiato sigla, adesso si chiamano Tutta Scena Teatro e Tutta Scena Cinema. Ma la sigla che amavo. Che a un certo punto... Hai rotto il ca, dici, però beh, a me piace. Poi in tutto questo mi ero creato un piano B. Ho detto lascio la radio e poi che faccio? C'ho la libreria, però io voglio fare cultura. E quindi mi sono aperto un blog che è Tutta Scena. E allora... Le interviste che faccio per il blog le utilizzo anche per le trasmissioni di cinema e di teatro, quindi Tutta Scena cinema, Tutta Scena teatro. Tra l'altro ci sono stati due grossi momenti della trasmissione di cinema. Fino a un certo punto è stata una trasmissione di critica cinematografica. Io ho coinvolto una serie di amici e colleghi che scrivono di cinema o fanno radio anche loro rispetto al cinema. E parlavamo dei film in uscita o dei festival che si svolgevano di lì a poco. Da un certo punto in poi c'è stato un grosso cambiamento, ho detto ma diamo voce a chi il cinema lo fa. Per cui da quel momento in poi gli amici che si occupavano di critica li sento una volta alla fine dell'anno, inizio dell'anno nuovo, per fare questo gioco sui film più belli tra quelli usciti in sala, per tirare fuori 5 film migliori dell'anno. Però per il resto dell'anno la trasmissione è costruita tutta su attori, attrici, produttori, produttrici, registi, registe, distributori, direttori di festival, chi organizza rassegne. E questo secondo me ha fatto anche la differenza. Secondo me è cresciuta molto in questo senso. Nel libro parli tanto del tuo rapporto con Mario Monicelli. Io ricordo tantissimo le trasmissioni dove interveniva lui e parlava di tutto, di qualsiasi cosa, di cinema ma anche non di cinema, di qualsiasi cosa. E quindi magari ecco, se ci vuoi ricordare qualche aneddoto legato a Mario Monicelli. A me quando lo ascoltavo in radio mi dava sempre l'impressione che era tra virgolette uno di noi, nel senso ti chiamava, però era Monicelli, quindi un po' stava un po', capito, sì, un po' sì, straniante. E sì, tu che ci sei stato molto più vicino. Io l'ho conosciuto un paio di volte, ci ho avuto occasione di vederlo, ma chiaramente non ci ho avuto il rapporto che ci ho avuto. Tu mi incuriosisce molto sapere un paio di aneddoti su di lui. Un aneddoto è che però non c'entro io, nel senso lui aveva contattato la radio, ma perché voleva che la radio curasse la colonna sonora del suo ultimo film, Le Rose del Deserto. Però io in quell'occasione non ci ho avuto a che fare. Per il resto io lo consideravo un battitore libero. Magari ci incontravamo a qualche proiezione stampa o parlavamo della proposta di legge sul cinema o su qualche festival internazionale a cui era stato. Per cui era veramente un rapporto tra due amici che conversano sul cinema, ma del più e del meno. Lui si sentiva a suo agio, io mi sentivo a mio agio a parlare con lui, quindi era molto... molto salottiera in senso buono come atmosfera. Aneddoti non ce ne sono, e comunque il grosso lascito di Mario è che qualche anno dopo la sua morte Ottavia Monicelli si è rivolta alla radio perché voleva fare questa trasmissione di favole per bambini e la redazione l'ha messa subito in contatto con me, quindi è nata anche questa amicizia con Ottavia, che è il lascito di Mario umano più bello poi alla fine, perché si è costruito anche questo rapporto con Ottavia, con cui abbiamo fatto questo ciclo di trasmissioni. Presente anche Elio in una puntata. E poi dopo aver esaurito questo ciclo di trasmissioni, perché comunque era complicato trovare sempre settimanalmente artisti disponibili per questa cosa, abbiamo fatto un ciclo di una ventina di trasmissioni, Valerio Mastandrea, Paolo Rossi, e poi è tornata con un'altra idea, le colonne sonore dei film. E anche questa è stata una bella esperienza, perché abbiamo cominciato con i film, quindi contattando anche amici e amiche critici cinematografici che ci davano i loro suggerimenti sui film dopo aver esaurito quelli che a noi più piacevano. Abbiamo cominciato con Il Grande Lebowski, che c'ha una colonna sonora strepitosa, e poi siamo passati proprio a chi la musica dei film la fa, dagli amici tipo Giuliano Taviani a Paolo Vivaldi, insomma anche quella è stata un'esperienza molto bella. Pure Teo Teardo. Teo Teardo. Senti, io ti parto proprio all'inizio del libro perché ho soltanto lo studio. Il rapporto col padre, visto che comunque alla fine anche noi abbiamo contestato i genitori, cioè, però alla fine questi genitori riemergono sempre in maniera forte, no? Ecco, il rapporto che tu hai avuto con lui e se tu sei il genitore, quello che tu vorresti per tuo figlio. Cioè questa cosa che appena ho aperto saluto mio padre e mi ha molto... il libro è legato a mio padre perché era quasi finito il libro. Mio padre era malato, se n'è andato a maggio dello scorso anno. Io avevo finito il libro a inizio anno, però non l'ho pubblicato perché è scoppiata la pandemia. Non aveva senso uscire con una cosa che non avrei potuto presentare dal vivo, come stiamo facendo. E sono riuscito a fargli leggere una bozza quasi definitiva del libro. E questo per me è stato importante. Mi ha telefonato, stavamo chiaramente isolati, io stavo a casa mia, lui stava a casa sua, non ci potevamo vedere. Ed è stata una telefonata importante. Nel corso della vita non abbiamo avuto mai un grosso dialogo perché eravamo molto, molto diversi. Però poi io nel corso degli anni ho capito quanto di lui c'era in me. E quindi c'è stata anche questa sorta di... Sì, sì, sì, no, è indubbiamente così, come scrivo anche nella dedica, la passione per il cinema, la passione per i viaggi, la passione per la corsa, io sono ex maratoneta, lui me l'ha passata con queste passioni. E quindi per me dedicarlo a lui è stato un momento importante, essere riuscito anche a farglielo leggere, non ha visto l'oggetto libro, però insomma ha letto il contenuto. Tra l'altro c'è un episodio che racconto nel libro. Nella mia prima occupazione all'interno di Villa Panfili c'era un centro sociale a Scatasuna, occupazione di Monteverde, che ha creato non pochi problemi anche personali. E insomma, la notte in cui ci furono un paio di bombe rivendicate dai separatisti baschi a Roma, la polizia all'alba arrivò al centro sociale perché aveva un nome basco, quindi hanno fatto uno più uno, secondo loro avevamo a che fare con gli attentatori. In quel periodo il centro sociale viveva un grosso problema con i fascisti del quartiere e quindi trovarono vicino all'ingresso sul muro di cinta una cassetta di plastica da frutta dei mercati con una decina di bottiglie con benzina dentro. E quindi arrestarono tutti, si portarono via tutti, eravamo in 11, avevamo dormito lì, io dormivo nel mio centro sociale. Ci portarono via e fatalità, quella mattina mio padre, uscendo di casa, doveva andare al lavoro fuori Roma, è passato davanti al centro sociale, ha visto tutta la polizia, è sceso dalla macchina, ha visto il cancello era aperto, c'era tutto un movimento dentro. E un poliziotto è andato lì, gli ha fatto: dottore, venga a vedere questi che facevano, perché pensava che era un funzionario della Digos, pensava. E quindi ha fatto fare tutta la perlustrazione del centro sociale e mio padre zitto che guardava questo. Chiaramente era tutto a soqquadro perché c'era stata la perquisizione, hanno portato via tutti. E poi nel trambusto generale mio padre è riuscito a sgattaiolare e se n'è tornato in macchina, è andato in libreria della mia madre e dice: ma che è successo? E quindi c'è pure questo episodio, insomma, gliene ho fatte passare un po' anche alla mia famiglia. Io non ho figli, però insomma mi rendo conto di quello che hanno vissuto pure loro, ecco. Beh, in compenso se posso dire pure che ai miei gliene ho fatti passare un po', adesso a casa mia girano più copie del libro di Federico e quindi forse grazie anche al libro capiscono, no? Delle motivazioni. No, nel senso che poi come generazione è stata una generazione che, diciamo, di rottura, di grossi cambiamenti, e i genitori sono proprio stati messi alla gomita, io sono molto più grande di voi, quindi ancora peggio. Però poi alla fine vedo me, ma adesso quando ripeto, ho aperto il libro, ho letto questo dal dottore e dico, ah, allora, non so io. Beh, no? Però... Quindi rimangono comunque delle radici molto, sì, molto forti, comunque sono con noi, ci hanno trasmesso comunque del loro, certo, certo, perché poi invece la rottura forte con il concetto di famiglia, con i genitori, è stato più decenni prima, sì. Dal 68 in poi tutti gli anni 70 sono stati la grossa contestazione del modello Dio padre a famiglia, e quindi i genitori andavano rinnegati. Per noi è stato un po' di... Anche proprio il modo di vivere andava contestato, il fatto delle esperienze di vita più o meno di comune. Le comuni, come no? Nelle varie sfaccettature. Era il modo di cercare una nuova dimensione, un nuovo modo di vivere. Il discorso che facevamo prima dei figli, no? Anche certo. In qualche modo li seguivi insieme, no? Emiliano era il figlio del ponte tutti. Era l'unico, però era buono. Se lo coccolavamo tutti. Quindi era proprio la ricerca di un modo di vita diverso rispetto a quella che era, sì. Poi per noi donne era proprio, cioè, certo, proprio, certo, sposa e madre, capirai, di rottura totale, non della maternità ma di certi valori, sì, sì, interno, sì. Di certi valori, quindi è stato veramente un momento di rottura. poi è chiaro che col tempo te domandi pure, dici madonna quante gliene ho fatte digerire, però di fatto no, però quello che adesso, sì, diciamo, no, certo, età, è chiaro, adesso dico, però vedi come poi alla fine è tutto un attimo, no? È chiaro che poi te le ritrovi dentro le cose che ti hanno trasmesso, cioè, poi forse è così proprio perché la passione del teatro, del cinema, perché comunque in maniera diversa però gli è arrivato. Certo, certo. Però a questo proposito a lui volevo chiedere una cosa. La rivoluzione di noi donne, il 68, l'avevi rigettato indietro le argomentazioni della famiglia, Dio, famiglia e patria, abbiamo rotto completamente. E i genitori non l'abbiamo ritrovati, mentre la loro generazione già era diversa. Certo. Questi genitori nuovi, diciamo, rispetto ai nostri, hanno anche accompagnato un certo. po' le loro idee, le loro cose. Non so se avete notato questo. Beh, la cesura rispetto... Sì, mentre sì. i vostri sì. li avete ritrovati anche voi. E questo per noi è stata una cosa molto, molto forte. Non aver potuto spiegare ai nostri genitori che cosa volevamo. Noi ce ne siamo andati all'improvviso, abbiamo abbandonati, abbiamo conquistato che potevamo girare con le gonne corte, che non ci dovevamo mettere sto velo in testa perché in Italia ancora si mette il velo mentre in chiesa. Quindi tutte queste cose, la nostra è stata proprio una rivoluzione, la vostra sì. è stato un passaggio. Sì. Io penso. Ed è un processo continuo perché, per esempio, vedo rispetto alla mia generazione, noi giocavamo sui marciapiedi, adesso io vedo i bambini sono seguitissimi, cioè non li lasciano, gli stanno molto addosso. Io sono cresciuto per strada, è diverso. Cambia le strade, c'erano strade senza le macchine. Invece come radio è stata la conquista grossa del movimento. Perché quello che si esprimeva nelle strade, in qualsiasi forma c'è stata in quegli anni, la comunicazione di questo è stata attraverso le radio cosiddette libere. E Onda Rossa a Roma è stata una di quelle esperienze che è durata 44 anni, senza pubblicità, senza soldi statali, senza niente. Però è stata quella la comunicazione della trasformazione che noi non abbiamo non riesco avuto a leggere. Noi abbiamo chiuso la nostra esperienza mano a mano senza diciamo, ritrovarsi più avanti. Sì. Invece la nascita delle radio è portata a questo e avete avuto insomma uno strumento molto grande. Sì, i giornaletti di scuola. La Zanzara a Milano, ma niente, tra la pure sotto casa mia a via Biofoa la Beh, diciamo che c'è un progressivo allontanamento dell'animale umano dentro zone di autoreclusione che sono macchine, appartamenti, cioè la vita, e questo è un pericolo anche rispetto alle nuove generazioni, si svolge molto di più isolata a livello la Scatasuna ci vivevano dentro come in tanti altri centri sociali. I compagni erano autonomi appunto, rispetto a tutto l'insegnamento che ci avevamo fatto prima e hanno affrontato, mi ricordo il processo a Scatasuna che venivano i genitori. Lei era la mia avvocata. Venivano i genitori, che gli fanno adesso? Non ti preoccupare. Il pubblico ministero chiese 1 anno e 4 mesi. Era terribile. Poi ci hanno assolto per non aver commesso il fatto, c'è stata l'esplosione della sala proprio. No, rispetto alla radio, mi piace un'esperienza come Radio Onda Rossa, mi fa venire in mente subito, secondo me la sintesi perfetta è una citazione di Marx che dice la prima condizione per la libertà di stampa è il non essere mestiere, e questo è il senso di Radio Onda Rossa, il non essere mestiere, e quindi ti dà quella libertà. L'importante è che adesso si aprono tante altre radio. Lo streaming, come no? Le web radio, come adesso c'è un altro tipo di... Vabbè, passato il discorso della comunicazione. Sì, cioè nel senso qualsiasi persona può decidere aprisse una sua radio personale a casa, in streaming e fare radio. Il che è un bene, ma può essere pure un male. Certo. Stesso discorso dell'uso dei social ormai, cioè quando una cosa è a disposizione di tutti... Chiaro che tra questi tutti ci stanno anche i malintenzionati o quelli che non la pensano assolutamente come te, che vorrebbero, insomma, che tu non parlassi, ad esempio. Una cosa che ho letto, vabbè, mi ha colpito perché è legata a un mio periodo, capito? Io non vivevo a Roma in quel periodo, ma sono venuto a Roma per altri motivi, ma nel periodo che c'era il processo Plitke, e quindi mi sono trovato lì in quella situazione molto strana, dove c'eravamo noi e dall'altra parte c'erano quelli che magari qualche anno prima, io andavo a scuola al ghetto ad esempio, no? Racconto questa cosa che riguarda me, con il collettivo della scuola invitammo Nemer Ahmad a parlare all'interno della nostra scuola, che era il rappresentante in Italia dell'OLP all'epoca. La scuola era praticamente proprio all'interno del ghetto, proprio all'interno, proprio. Si chiamava IPSA perché non esiste più, e lo stabile era dove era il Rialto, proprio quello stabile. Ok, su Rialto Sant'Ambrogio. Sì, bravo. Noi invitammo Nemer Ahmad, che fece il suo intervento nella nostra assemblea, spiegò la situazione e tutto. Lo riaccompagnammo perché era venuto con l'autobus. L'abbiamo riaccompagnato alla fermata dell'autobus, gli abbiamo fatto prendere l'autobus. Subito dopo c'erano quattro ragazzoni che si sono qualificati come i fratelli della LED, che ci hanno un po' imbruttito, insomma, ci hanno fatto capire che magari all'interno del ghetto portare un palestinese era un problema, che per un po' di giorni era meglio che non andavamo a scuola. Vabbè, noi chiaramente il giorno dopo siamo andati a scuola, tutti un po' paurosi, però insomma ci hanno minacciato. E quindi per me quello era l'ultimo impatto che ci aveva avuto, insomma, dai tempi della scuola con il mondo ebraico. E poi mi sono ritrovato dalla stessa parte della barricata quel giorno, perché avevano assolto Pripke. Io, per la verità, venivo da Milano e proprio quel giorno ero arrivato a Roma, stavo a casa di mia madre, ho sentito questa cosa, ho sentito la radio che c'erano i compagni che si vedevano lì sotto, e sono andato lì sotto. Poi, vabbè, magari al tribunale militare, a Viale delle Milizie. Questa cosa, siccome è spiegata nel libro, magari, siccome non l'ho scritto io il libro, se la vuoi raccontare, perché è singolare, insomma, quello che è successo, l'assoluzione di Pripke e il fatto che poi non è potuto uscire dal tribunale, insomma, se lo spieghi. È stato un episodio che ha fatto storia, è importante, stiamo parlando della metà degli anni 90, era il 96, 95 e 96. È stato anche il motivo per cui io ho cominciato a fare radio, perché si apriva il processo Pripke, uno dei responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma, al Tribunale Militare a Viale delle Milizie. E io sono andato. E sono andato e ho capito quanto fosse importante quel procedimento, perché era uno degli ultimi, e poi non sono ancora finiti, gli ultimi boia ancora in circolazione. Tra l'altro erano lui e Karl Haas, che era un altro graduato responsabile anch'esso dell'eccidio. E quindi ho detto: facciamo le corrispondenze per la radio, perché questo processo io lo voglio seguire, voglio venire a tutte le udienze. E alle udienze ho conosciuto Rosetta Stame, che è la figlia del tenore Ugo Stame, ucciso alle Fosse Ardeatine, e Rosetta Stame, che è dell'Associazione dei Familiari delle Vittime delle Fosse Ardeatine, mi ha preso subito in simpatia, mi ha fatto conoscere due partigiani importanti della Resistenza romana, che sono Franco Bartolini dei GAP e Orfeo Mucci di Bandiera Rossa. Orfeo Mucci e Franco Bartolini sono stati i nostri interlocutori in radio, nella trasmissione, in diverse occasioni, erano amici della radio. E quando c'è stata l'assoluzione perché il reato era prescritto, c'è stata la rivolta. Io in quel momento non c'ero, ero in Chiapas. Chi era presente all'udienza, che erano sia familiari delle vittime che comunità ebraica, hanno proprio protestato vivacemente. Emiliano, mio compagno fin dal centro sociale a Scatasuna, che seguiva il processo con Ottavio, amico della radio, hanno telefonato in radio, hanno preso le chiavi a un militare lì nel trambusto, perché questo militare era particolarmente odioso, aveva chiuso il bar e c'erano anche anziani che dovevano bere pure semplicemente acqua, e quindi è stato strattonato, gli hanno levato le chiavi, hanno chiuso il portone, per cui hanno preso possesso del tribunale militare, e con le corrispondenze fatte da Piero della radio, Emiliano e Ottavio l'hanno fatto entrare. E quindi la radio ha chiamato questa adunata, questa emergenza. Quindi compagni del movimento antagonista sono arrivati sotto al tribunale, che era chiuso, siamo barricati, e quindi si sono scontrati con le forze dell'ordine. Tutto l'isolato era a ferro e fuoco. E dentro il tribunale il rappresentante della comunità ebraica e il PM, che era Intelisano, tra l'altro ha fatto un grande lavoro per quanto riguarda il processo Pripke, è un uomo probabilmente dei servizi segreti, hanno chiamato Intelisano il rappresentante della comunità ebraica Emiliano, perché rappresentava secondo loro tutti quelli che stavano fuori a scontrarsi con la polizia, a una riunione al primo piano, tutto questo mentre Priebke era chiuso in una stanzetta protetto solo da una decina di militari. Insomma, il tipo dei servizi segreti chiese al rappresentante della comunità: che dovete fare? E lui ha detto: se Priebke prende l'aereo, perché c'era già un aereo pronto a Fiumicino per portarselo via, da quel momento in poi non sarà più nostra responsabilità, nel senso che sarebbero intervenute altre forze a livello internazionale per impedire sta cosa. E Emiliano gli ha chiesto: che dovete fare fuori? E lui ha detto: qualunque cosa succede qua dentro c'ha ripercussioni fuori, è chiaro. E quindi questo è stato un passaggio decisivo. È stato un passaggio importante, perché poi ha avuto un grosso risalto sui mezzi di informazione. In quella stessa notte è arrivata la richiesta di estradizione dalla Germania, per cui Priebke non lo hanno lasciato. Il processo è ricominciato con una diversa corte, stavolta però l'hanno fatto nell'aula bunker di Re Bibbia, perché era un luogo più sicuro. Ho seguito anche lì il processo. Ad una delle udienze mi sono presentato con i volantini della trasmissione Voci della Resistenza, che è questa trasmissione che facciamo sulla memoria storica, e Rosetta Stame mi ha detto: mi fai vedere sto volantino? Nell'atto di dargli il volantino sono stato preso dai poliziotti e portato in commissariato dentro all'aula bunker, perché chiaramente secondo loro era un tipo di propaganda. E Rosetta è andata subito dall'esponente della comunità ebraica, gli ha spiegato quello che stava succedendo, lui è venuto lì al commissariato, ha aperto la porta, ha detto: volevo solo controllare le condizioni del ragazzo. Ha richiuso la porta, il commissario dentro si è alzato in piedi, mi ha fatto alzare in piedi a me, mi ha stretto la mano e mi ha rimandato via. Quindi figurate la potenza di certi interventi. E nella stessa occasione il procuratore di Priebke, che era tra l'altro un neofascista, Fachini mi sembra che si chiamasse, aveva messo un dossier fatto da loro che giustificava... La famosa... cioè io seguivo gli ordini. Sì, riportavano anche le sentenze del processo Kappler. I soldati hanno obbedito a un ordine. E Fachini è stato preso e portato in commissariato lo stesso, come era successo a me. Però stavolta la sentenza è stata diversa. Ed è stata una sentenza che ha fatto giurisprudenza, perché si è stabilito che non ci poteva più essere imprescrittibilità per i crimini di guerra. E c'era la responsabilità individuale, per cui anche se sei un semplice soldato, se hai commesso un crimine devi pagare per quel crimine, poi rivolgetevi al superiore. Quindi quel processo è stato importante a livello mondiale per quello che ha significato. E comunque il rapporto in questo caso con la comunità ebraica era oggettivo, ovviamente eravamo di fronte a un nazista, e se non mettevamo in campo quel rapporto di forze non si sarebbe cambiato leader del processo. A quest'ora Priebke ci stava a fare pernacchie dalla Germania, purtroppo già fatte per tanto tempo, sì, a Roma, appunto. Perché è morto dopo un sacco di anni, lo so, però ovviamente almeno ha subito, sì, la condanna e non poteva più essere estradato da questo punto di vista. Questo della difficoltà comunque con la comunità ebraica è sempre esistito, e non per colpa degli antifascisti romani, dei compagni militanti, è solo perché si arrogano il diritto, la comunità ebraica, compreso sti figuri abbastanza altezzosi e maneschi della Lega Difesa Ebraica, che nel 1982 misero una bomba a Radio Onda Rossa, una bomba ad alto potenziale, al primo piano sta a Radio Onda Rossa, perché accusavamo, giustamente ci sembrava a noi, lo Stato di Israele di essere invasore, aveva invaso il Libano, aveva messo a ferro a fuoco le città, è arrivato a Beirut con i carri armati e stava sbragando Beirut praticamente. A quel punto c'era l'ultima resistenza palestinese e noi parteggiavamo per i palestinesi e per la resistenza libanese. Solo per questo fatto, che ovviamente appartiene a una dialettica... Ma pure per il massacro di Sabra e Shatila, per i campi propri. E quello avviene poi immediatamente dopo. Misero questa bomba ad alto potenziale che rischiava di far crollare il palazzo di Via dei Volsci 56, tant'è che fece un metro di diametro al primo piano, da sotto si vedeva, e c'è fu una enorme sensibilità, mobilitazione per giorni, giorni e giorni, e loro si nascosero dietro il dito dicendo: no, non siamo stati noi, mentre era palese con un materiale che se l'erano rivendicata. Ma noi non siamo mai stati contro gli ebrei, ci mancherebbe altro, appartengono a una storia che a Roma è fondamentale, appartengono a un pezzo della resistenza che a Roma è fondamentale, solo che loro si avvalgono della vicenda della Shoah costantemente nei confronti del popolo palestinese, a cui fanno tutte le violenze possibili e immaginabili che hanno subito loro ai tempi del nazismo. Questa è la accusa che noi gli rivolgiamo, ovviamente, perché ci vorrebbe molto poco, a distanza ormai dei 70 anni dall'occupazione militare dei territori in Cisgiordania e a Gerusalemme, di dire basta, quella è un'occupazione, noi siamo uno Stato militare occupante, bisogna che la facciamo finita, bisogna che quel territorio possiamo dargli una speranza di pace alle generazioni successive, lasciamo ai palestinesi quella che è la parte loro. Invece tutto questo non avviene e a noi non ci mancherà mai il fiato, ovviamente, di fare l'alleanza con qualsiasi vicenda, ovviamente, della comunità umana, nei confronti di qualsiasi forma di razzismo e di nazismo, perché questo si è sviluppato a partire da ogni occasione che si è venuta qui sulla Piazza Romana, compreso l'episodio che ha appena testimoniato Federico, insieme a questi due nostri compagni meravigliosi che non ci stanno più da un pezzetto, Franco Bartolini, che è stato partecipante dei GAP qui a Roma, e invece Orfeo, che era il commissario politico di una delle organizzazioni più importanti della resistenza a Roma, che era Bandiera Rossa. Fino all'ultimo momento hanno dato il loro contributo importantissimo alle nuove generazioni, spiegando le motivazioni del perché e per come non si può non essere antifascisti in questa vicenda umana. E sono morti ultra novantenne Orfeo Mucci e meno dei 90 anni Franco Bartolini, ma fino all'ultimo respiro ovviamente si sono mai tirati indietro. Hanno dato della loro testimonianza della vita, che non era solamente un impegno a sostegno di questa idea, ma nella loro vita uno era un artigiano, un altro era uno che ha fatto il tipografo e cose di questo genere, hanno dato dimostrazione di come si può vivere dignitosamente nel rispetto delle altre persone, insegnando agli altri quello che è il rispetto delle comunità che devono vivere in coesistenza pacifica. Questo è il grande insegnamento di questi due compagni. Del fatto che noi rappresentiamo l'ANPI, abbiamo dedicato appunto la sezione a Franco Bartolini. Trullo Magliano. Ecco, proprio a proposito, sempre a proposito di intrecci, sempre a proposito di intrecci, la nipote di Franco Bartolini è Tamara. Tamara è da sempre ascoltatrice e amica di Radio Onda Rossa, è diventata anche amica mia proprio grazie a Franco. Ha fatto vari spettacoli a sostegno della radio e quindi anche questo è un intreccio che si è creato nel tempo. Ho fatto spettacolo con Tamara e faceva mia sorella nel 99, quindi pensa come poi tutto. Ho avuto l'onore di conoscere Franco tramite lei. Grazie a tutti e a tutti. Grazie.